Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Historia por hacer, porque nadie resiste. Coppa, Carletto si prese anche il palcoscenico. Manco fosse Bono o Mick Jagger. Lorenzo Raspoli in redazione, Fabio Cantadone in regia, 800 24 00 24 è il numero verde. Solo alle grandi rockstar, caro Pierluigi Pardo, capita di cantare in uno stadio pieno in diretta TV. Sì, sì, è vero, ma era già successo a Lancelotti, sì, lo so. Perché ci fu la famosa festa del 2007 a San Siro dopo la conquista della Champions League, quando cantò, diciamo, fra lo stonato e secondo me anche l'ubriaco. L'anticcio, sì, ricordo bene. Adesso c'è cioè, lì Piantanida, sicuramente ce la Piantanida, riproporrà. Piantanida un c'è. Ah, un c'è Piantanida, un però c'è. Adesso... Sì, ma è molto migliorato, evidentemente ha preso le lezioni di canto. Sì, sì. Poi... Beh, tra l'altro la figlia, che salutiamo, perché insomma spesso ci ascolta, è un'amica, Katia, è una grande cantante, adesso sembra Maria Callas, sembra non so, Caterina Cerelli, però è una cantante brava, insomma, aveva cantato, quindi insomma magari qualche consiglio gliel'ha dato, ecco. Sì. Se ci sta ascoltando, perché non ci chiama? 800 24 00 24, sarebbe bellissimo. Quanto alla partita, è finita come doveva finire, no? Come era giusto finisse, dato quello che sì, si è visto. Sì, dato anche il tuo pronostico 4-1, però il tuo pronostico, tu parlavi di una partita completamente diversa. Sì, eh? è chiaro. Però che conta il risultato, anche risultato, se segna il 93esimo. Ha vinto il signor Genta. No, è stata una partita, vabbè, la di Madrid è una squadra eccezionale nel far giocare male le avversarie, no. E c'era riuscita anche stavolta, insomma. Poi però è chiaro che dopo l'1-1 è stata un'altra partita. Io credo che alla fine abbia pesato il cambio iniziale perso dal Atletico Madrid con l'istruzione di Costa, anche se non me la sento minimamente di biasimare Simeone, perché secondo me come fai? Beh, come un fai po' a, sì, a uno? Devi sapere, cioè se uno gioca 10 minuti, ma poi in riscaldamento è stato anche notato da alcuni, ad esempio i telecronisti della TV svizzera, ho saputo. Questo qui non stava in piedi, non riusciva a calciare il pallone, non riusciva a giocare. Sono completamente contrario adesso a fare una colpa a Simeone, perché stava qui. È chiaro, razionalmente, certo, è un giocatore che provi e che dopo 9 minuti esce, è ovvio, è chiaro che è fregato un cambio, però in un momento come questo di magia, di musica per l'Atletico Madrid, sì, che viveva su queste cose, a Barcellona, un giocatore come lui che ti ha trascinato tutta la stagione, che vuole giocare, che ti dice che sta bene, ma come fai? Dai, su, adesso il calcio è anche questo, lo spirito di squadra è anche questo, e non dimentichiamoci che a un minuto alla fine l'Atletico aveva la Coppa in mano, quindi a un minuto alla fine aveva la Coppa in mano, poi anche quello, non mi sento di dire che Real Madrid abbia avuto tutto sto culo, come Ancelotti lo ammette, cioè siamo stati fortunati, come sceglievi i generali Napoleone, quelli bravi, quelli fortunati, va bene, quando segna il 93esimo è fortuna, ma è una fortuna ampiamente meritata, perché onestamente il Real Madrid quel secondo tempo l'ha dominato. È passata qualche ora, anzi è passato quasi qualche giorno da sabato sera, però io voglio chiedere agli ascoltatori anche cosa ne pensano di questa lettura. Pierluigi Pardo dice: non mi sento di fare una colpa a Simeone perché ha giocato Diego Costa. Io penso che sia stato un errore quello di Simeone. Leggo sul Corriere della Sera di oggi un amico, Luca Valdiseri, che scrive: il ciolismo, se non dosato con più sapienza, in futuro rischia di non far diventare Simeone il degno erede di Mourinho. Fedele all'etica del sacrificio ai limiti del Karakiri, l'argentino ha schierato Diego Costa infortunato e ha dovuto sostituirlo dopo 9 minuti. L'atto eroico è stato pagato a caro prezzo con una sostituzione bruciata, quando sarebbe servito un uomo fresco nel finale, quando l'Atletico era in preda ai crampi e il talento del Real finalmente liberato dai timori di Ancelotti. Tutti convocati. Vorrei riprendere questo discorso che mi interessa. Pierluigi Pardo sta con Simeone, che è andato fino alla fine, fino alla finale, fino all'ultimo momento con i suoi e con la sua stella infortunata Diego Costa, pagando una sostituzione che nel finale sarebbe stata molto utile. A mio parere è stato un errore. Invito alla discussione il nostro amico Paolo Condò, prestigiosissimo inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao. Buongiorno, Paolo. Buongiorno, Pier. Buongiorno. Eccomi qui, allora. Troppo ciolismo in quella scelta di Simeone. È chiaro la questione di Rana Caprina, no? Perché è andata come è andata, perché Diego Costa ha giocato 9 minuti, perché succede, il Real ha segnato all'ultimo istante, eccetera, eccetera, eccetera. Però è stato un errore quello di Simeone? Come scrive Valdiseri, eccesso di ciolismo? È stato un errore necessario e inevitabile, nel senso che in certe situazioni tu ascolti i giocatori più dei medici. Ricordo un Roberto Baggio che non stava in piedi nella finale del 94, sì, per esempio. Ricordo diversi giocatori della nostra nazionale nel 2012 che al finale camminavano. Però quando tu arrivi a certi livelli e ci sono stati degli uomini che a quei livelli ti hanno portato, non è che puoi dire, non ho mai visto uno con la freddezza di dire no, tu adesso stai fuori, la finale la gioco un altro. Non ho mai visto, ne avrei paura, se ti devo dire la sincera verità. Avrei paura. Quindi esistono nella vita degli errori necessari, che sono necessari anche perché c'è sempre un domani. C'è sempre un domani e ci saranno comunque dei giocatori che dovranno nuovamente, dico Costa no perché penso che andrà il Chelsea, sì, ma che dovranno nuovamente fidarsi e affidare tutto nelle mani di Simeone, e sapranno che Simeone non tradisce. Pierluigi, Ancelotti è allenatore perfetto per una grande squadra che, come sappiamo, abbiamo detto molte volte, è un lavoro diverso rispetto a fare l'allenatore. Beh sì, assolutamente. Insomma, Ancelotti, io credo che Ancelotti sarebbe il primo a condividere la scelta di Simeone, cioè penso che semmai avrà la voglia di parlarne. Io credo che la scelta di Simeone di mettere in campo uno come Diego Costa risponda proprio a logiche di gruppo assolutamente normali, sane. Poi certo, diciamo tutti, è ovvio, insomma, non stava in piedi, è uscita, ha perso la costituzione, cioè è abbastanza banale, sì, dire che poi è stato un errore, certo, è chiaro, ha giocato 9 minuti. Probabilmente Simeone pensava che potesse giocare di più, sicuramente non poteva sapere che dopo 9 minuti sarebbe dovuto uscire. Quindi io penso che Ancelotti questa linea la condividerebbe. E in generale sì, beh, insomma, stiamo parlando di uno straordinario seduttore di uomini, nel senso più bello, più profondo, più alto, secondo me, di uno spogliatoio, con uno stile completamente diverso rispetto ad altri, tipo Mourinho, ma lui assolutamente, e l'ha dimostrato la scena che abbiamo visto in conferenza stampa ancora, sì, una volta. Sì, sì, sì. Insomma, Ancelotti è amato, Ancelotti si fa amare, Ancelotti lo conosce un po' e ti conquista per la persona che è, sì, perché appunto non è un duro, però è autorevole, certo, perché è onesto e perché tira fuori il meglio, uno psicologo straordinario. Quindi questa secondo me è la sua grande qualità. È chiaro che negli ultimi anni ha beccato un bel giro di squadre. Successo chiama successo, grande squadra chiama grande squadra, campione chiama campione, e quindi si alimenta questo circolo virtuoso. Sì, ma credo che questa sia stata la definitiva incoronazione, è tutte cose che sapevamo già di Carlo Ancelotti, però in una situazione come questa, con una pressione pazzesca come quella che aveva sulle spalle Real Madrid, e in quel primo tempo mi sembra si sia visto, no? Perché Real Madrid, no, ha ammesso anche Carlo, non avevano giocato a pallone. Nel secondo tempo gli ho detto: per favore, possiamo cominciare? Possiamo cominciare a far girare quella palla, a giocare a calcio come sappiamo? Ed è da lì, è stato quel che è stato. Paolo Condò, ma davvero sarebbe andato via in caso di fallimento, in caso di sconfitta? Penso di sì, sarebbe andato via, nel senso che mi è stata raccontata che in tribuna d'onore, fino al pareggio di Sergio Ramos, c'era un'aria di quelle proprio terribili nei suoi confronti. E insomma, gli allenatori dipendono dai risultati a tutti i livelli, soprattutto a quelli altissimi, E poi Ancelotti è stato a lungo inseguito nel tempo da Florentino Perez, però poi Florentino Perez si è accorto che la sua personalità, che insomma non è una personalità facile, non collimava con quella di Ancelotti, perché comunque Ancelotti in questi anni si è abituato a convivere con dei proprietari di squadra che da una parte gli hanno messo a disposizione ogni ben di Dio dal punto di vista del mercato, però dall'altra vogliono avere voce in capitolo. Sì, sì. Vogliono che sembri che loro hanno voce in capitolo. Sì, sì. Beh, ma anche questo è bravissimo a gestire la situazione, non solo con i giocatori. Lui è straordinario perché, voglio dire, il mio amatissimo Loco Bielsa gli avrebbe preso a schiaffi tutti i suoi presidenti nel giro di 5 minuti. Sì, questo, sì. Questo è il numero uno. Questo... questo è il numero, guarda, il numero uno. Posso dirti che Ancelotti, secondo me, in questi anni ha dovuto sopportare, chiaramente sono supportazioni lievi, quando guadagni queste cifre, fai questo lavoro così bello. Berlusconi, però, Abramovic. No, ma ha dovuto sopportare, adesso senza fare i nomi, ma insomma... Che sappiamo perfettamente. Però voglio dire, tutta una serie di ingerenze, di... di eccesso di critiche, di clima di ostilità o comunque di perplessità sul suo lavoro, molto molto forte, molto spesso... Da questo punto di vista, secondo me, è il numero uno degli incassatori. Mm-hmm. Proprio è veramente un muro di gomma. Un muro di gomma. Non si scompone con questa sua calma, va avanti, crede nelle sue idee, nel suo lavoro, nei suoi collaboratori, nei suoi giocatori. Però veramente devo dire che per l'allenatore che era, per carità, va anche detto che chi è proprietario ha diritto di avere delle idee, anche di criticare, ma certo, ci mancherebbe altro, no? Perché comunque fino a prova contraria, Berlusconi, Abramovic, Florentino Perez ci mettono il grano e quindi, comprano i giocatori, quindi, e quindi hanno diritto di dire la loro. È molto sottile il limite però fra la delegittimazione dell'essere considerato un pirla e il legittimo diritto di un proprietario di una squadra di calcio di poter esprimere delle critiche nei confronti del suo allenatore in dei momenti che non sono momenti. Tra l'altro i due discorsi con quello che facevamo prima si congiungono nel momento in cui Ancelotti era considerato un pirla in tribuna d'onore l'altra sera a Lisbona fino al 48esimo del secondo tempo per essersi comportato sia pure in maniera meno plateale come Simeone, perché comunque Benzema non stava in piedi, è rimasto in campo a lungo ma non stava in piedi Benzema, e Cristiano Ronaldo ha giocato la partita più anonima della stagione, perché anche poveraccio, anche lui non era in condizioni, è da tempo che non si allena e che aspettava soltanto questa partita. E poi Paolo stava anche per pagare la scelta di Casillas, perché stava per pagare la scelta di Casillas. Quello è un altro discorso, quella certamente è un'altra cosa sulla quale onestamente non sono granché d'accordo con la loro gestione, e stava per fregarli. E comunque lui si è comportato come Simeone, ha messo in campo giocatori che riteneva avessero acquisito il diritto di giocare, anche perché parliamoci chiaro, con i loro nomi spaventavano comunque gli avversari. Lo stesso Bale ci ha messo un po' per prendere il ritmo della partita l'altra sera, e sono entrambe le squadre, e ci aggiungo il Barcellona che avevo visto una settimana prima perdere la finale della Liga con l'Atletico Madrid, sono arrivati veramente sulle ginocchia a fine torneo. Sono molto curioso di vedere cosa succede adesso alla Spagna. No, ma... tra l'altro Diego Costa è fortemente in dubbio. Non so se ce la fa Diego Costa, che infortuni muscolari sono infortuni muscolari, non sono questioni che si risolvono con una puntura. Prima di salutarti Paolo, c'è un ascoltatore che mi domanda di farci raccontare cosa ti ha detto Zenga a proposito di questa dottoressa di Belgrado che per l'appunto ha curato Diego Costa. No, è vero, e mi permette di difendere il mio amico Walter, perché io l'altra sera, prima che iniziasse la partita, una volta uscita le formazioni, voi sapete che Zenga ha allenato e vissuto a Belgrado, certo, conosce questa Mariana, e lui mi aveva detto: Mariana lo mette in piedi, se veramente è stata a Belgrado Mariana lo mette in piedi e lui gioca. E alla fine ho twittato questo, dopo 9 minuti il povero Zenga è stato squissato di un intervento di Mariana a bordo campo. Il problema è che, cioè, in realtà quello che mi ha detto Zenga è stato rimesso in piedi Diego Costa, certo. È stato rimesso in piedi, e poi io credo, tra l'altro, Diego Costa è uscito al contro il Barcellona dopo un quarto d'ora, e proprio lì si è visto, tenta lo scatto e si stira, sì. E si stira e si ferma e zoppica così. Io l'altra sera non ho percepito, ho avuto la sensazione che lui sia uscito appena ha sentito qualche cosa di rischioso, cioè in maniera più prudenziale, non si è rotto l'altra sera, è uscito perché si sarebbe rotto se fosse andato avanti. Quindi volevo restituire l'onore al mio amico Walter, insomma, quello che ha detto lui, poi alla fine soprattutto a Mariana, che vista in fotografia, devo dire, non ha soltanto argomenti medici. Sì. Capiamo come riesce a rimetterle in piedi. Vabbè, adesso stiamo scivolando su un'altra deriva. Però, insomma, no, al di là di che tutto. Comunque, se ahimè, parlo insieme. Noi lo adoriamo per quello. Prandelli ha firmato, ragazzi. Rinnovo del contratto fino al 2026. Ci voleva tanto a annunciare sta notizia. Dovevamo farlo 10 giorni fa, no? Invece aspetta fino ad ora con questa, ma no, fermiamo in un anno secondo. Oggi siamo d'accordo, è lo sponsor day. Bravo. Ecco perché. E come sei malizioso. Saggio. Magari ci saranno gli sponsor anche più tristi, perché magari gli toglie spazio, adesso non so come comunicazione se sia utile o no, francamente, però insomma oggi è una circostanza ufficiale, diciamo, a Coverciano c'era il presidente, per cui insomma. Per cui era il giorno, era studiata così, era, l'avevano disegnata così, insomma. Paolo Condò, grazie, Ciao! Ti abbraccio. Ciao Piero, ciao Carlo. 800-24-0024, dopo la borsa ci ritroviamo. Modric nel mucchio, colpo di testa! Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. Che vorrei cantare adesso insieme a voi. Comincio io. Ale! Beh, Pier, Chiantarino non ce l'abbiamo ripescato lo stesso, nettamente migliore il secondo concerto rispetto al primo, rispetto a quello del debutto. Beh, era un brano più melodico, Era un brano più melodico, sì. Secondo me è più adatto, più nelle corde. Sì. Sai, Ancelotti comunque, questa tradizione emiliana, un po' cucciniana, sì. Cantorale, questa voce, quindi piccola città, bastardo posto per nato, ti soffese. Tu invece sei Zelig, che puoi passare serenamente da Guccini a Pino Daniele senza battere ciglio, attraversando Ligabue. Pino Daniele, fra l'altro, a Uriemma la voce simile. Bravo, un giorno lo facciamo cantare. Ce la canta Pino Daniele, ovviamente il maestro Pino Daniele ci perdonerà, insomma, però capito, questo tono un po' da soprano, direi. Senti, ma c'è un ascoltatore che ti fa una domanda, poi sentiamo quelli via voce, 800-24-0024. C'è invece Stefano Dovidine che scrive una domanda per te: ma se avesse vinto l'Atletico Madrid a finale sarebbe stato veramente uno scandalo? A me non sembra. Scandalo. Se al 93esimo minuto sei passato 1-0, scandalo di che? Appunto. Ma infatti io dico che noi dobbiamo, secondo me, il calcio ormai lo conosciamo da una vita e ci piace sempre più, e la bellezza del calcio è anche questa, ovviamente. Però insomma, siamo adulti e vaccinati, è giusto che Ancelotti venga celebrato come un trionfatore. Secondo me è giusto anche che la partita l'abbia vinta il Real, perché comunque era la migliore squadra in campo. Però insomma, al 93esimo l'Atletico Madrid l'aveva incartata, l'ennesimo miracolo di una stagione già miracolosa. Per questo oggi il processo al Ciolo mi sembra veramente una cosa. No, sbagliato, hai preso un rischio che dovevi prendere, non avevi alternative, perché Diego Costa in quelle condizioni doveva giocare. Poi sicuramente c'è stato anche quello scatto d'ira verso la fine su Varane, che sicuramente lo poteva risparmiare. Detto questo, per me fatto l'ennesima grande partita di una stagione incredibile, perché sì, comunque gliel'aveva incartata anche stavolta. Poi sì, al minuto 93 anche se anche Carletto, però questo Sassolino se l'è tolto dalla scarpa, va bene, complimenti a lui, però non potevano vincere una coppa senza mai tirare in porta, questo ha detto Ancelotti, mi sembra è un'affermazione, mi sembra, diritto di cittadinanza, poi alla fine assolutamente, ma il Real è più forte, ha un budget certamente superiore, è una squadra più forte dell'Atletico Madrid. Io non so come abbia fatto l'Atletico a vincere una competizione, no, una competizione di 38 partite, perché sulla partita secca ci sta, ma esatto, il vero miracolo l'hanno fatto il campionato, perché vincere il campionato vuol dire che tu sei più forte in una gara di regolarità. Se vincere una gara di regolarità con 14 giocatori, tale è stato l'Atletico Madrid, è una prestazione che non ha, per me è, sia pazzesco, sia pazzesco, è una roba fuori dal mondo, insomma, ecco. Mentre nella partita secca, così come l'Atletico Madrid aveva vinto l'anno scorso la Coppa del Re, ci poteva anche stare. Però insomma il calcio è questo, lo conosciamo. Adesso fare i processi a Simeone mi sembra sbagliato. Io sono contento, ne avevo parlato la settimana scorsa, perché tifavo comunque per Carlo. E ti favo a cuor leggero dopo che l'Atletico aveva vinto il campionato, perché sicuro, se l'Atletico avesse finito la stagione senza vincere niente sarebbe stata una clamorosa ingiustizia, un clamoroso falso storico. Ma poi hai ragione quando dici che vincere una maratona con quella squadra, pur infilandosi in un momento strano, il vuoto di potere del Barcellona, in un Real Madrid che, dicevamo l'altro giorno, l'ha data sua alla fine del campionato, perché Carletto ha rischiato tantissimo anche per questo, perché ha praticamente regalato via la Liga. Le ultime tre partite del Real Madrid sono state chiaramente solo preparazione mentale, quello che vuoi, alla finale dell'altra sera, quindi il rischio era colossale. Mimmo, provincia di Caserta. Sì, buongiorno e ben ritrovati. Volevo fare una riflessione sulla finale di sabato scorso e sapere un vostro parere in studio. E poi una cosa su Cristiano Ronaldo. Io premetto che Ancelotti è un grandissimo allenatore, mi piace come gestisce le situazioni in panchina, nei momenti buoni e nei momenti cattivi. Mi piace il modo di stare proprio in panchina di Carletto Ancelotti. Però volevo dire, arrivare in finale di Champions con una squadra che, cioè tutte le altre squadre del mondo non riuscirebbero, presi singolarmente, a fare la stessa squadra che ha il Real Madrid. Doveva vincere una Liga con lo stuzzicadenti tra i denti, l'ha persa con un Barcellona allo sbando, l'ha persa clamorosamente, al 93esimo aveva perso anche la finale di Coppa dei Campioni. Oggi è chiaro che si celebra, il vincitore si celebra sempre, però io volevo ricordare che Carletto Ancelotti, per diventare un grande allenatore, ce ne ha messo, oggi si crocifigge Conte perché dice che è stato bocciato in Europa. Nessuno crocifigge Conte, però non possiamo dire che la stagione europea della Juventus è stata brillante, punto, finita lì, poi vediamo, no, la prossima magari la vince. È stata pessima, assolutamente. Appunto. Secondo me ne farà grossa esperienza. Volevo ricordare che Ancelotti, prima di diventare quello che è diventato, abbiamo perso un campionato con 9 punti a 4 nazionali. Sì, ma la strada per arrivare a vincere è quella. Poi arriva da lì, certamente è arrivato da lì. Se ricordate, Ancelotti nasce come grande allenatore a Manchester con il derby italiano. Gli girarono bene i rigori, ma se il Conte senza capelli di allora metteva il pallone dentro invece Mimmo, non mi faccia dire che coi secoli mano si fa la storia, perché al 93esimo stava perdendo Champions League, se Conte con i capelli o senza capelli, quanto dice lei? Ha perso anche una finale di Champions dove stava 3-0. Bravo, Pierluigi, ha perso la finale di Champions dove stava 3-0. E poi il vero paradosso della finale di Champions di Ancelotti è che lui ha perso l'unica che ha dominato. Se voi fate caso, prendete le finali di Champions di Ancelotti, c'è una sola partita dove il Milan è stato, cioè la sua squadra è stata nettamente superiore all'avversaria, ed è stato quel Milan-Liverpool, dove comunque il Liverpool, a parte quel quarto d'ora, per gli altri 105 minuti è stato preso a pallate. Sì. Poi per il resto Milan-Liverpool-Atene fu una partita abbastanza equilibrata, risolta dagli episodi. Milan-Juve-Manchester, proprio partita da X, schiantato, assoluto, questa qui sicuramente sì, poi nel supplementare non c'è stata la partita, ma poi è chiaro, Pier, che tanto, no? Anche il discorso del Real Madrid con tutti i giocatori che ha, secondo me questo è un discorso, è una premessa sbagliata, che poi ci sono anche quelli che scrivono, beh, facile col Milan, Paris Saint Germain, Real, vediamo, solite banalità, cosa fa Ancelotti con Chievo, Pescara, Lecce, ma se sono Chievo, Pescara, Lecce non chiamo Ancelotti, e se sono Real Madrid non chiamo un allenatore di Chievo, Pescara, Lecce, perché mi serve un profilo diverso, uno abituato a fare altre cose. Alessandro Chieti, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo entrare sul punto di Simonica e Spiego. Non sento niente, Alessandro, riproviamo dopo il traffico, facciamo così. Tutti convocati. Vediamo se riusciamo a parlare con Alessandro adesso. Eccomi, buongiorno. Eccolo, dica. Volevo intervenire sul fatto che Simeone ha schierato Diego Costa. Ma secondo me oggi fare un ragionamento del tipo ha fatto giocare uno che dopo 9 minuti non ce la faceva più, dovuto uscire, ha sprecato un cambio, è una, diciamo, una considerazione che la può fare chi non ha fatto sport e non capisce quali sono i piani decisionali di un allenatore. Diego Costa è stato un giocatore che per 3/4 ha avuto il merito di portare la squadra dove è stato. Questo è indiscutibile. E anche la scelta stessa di Simeone, se dobbiamo mettere su due piatti della bilancia due situazioni, da un lato che cosa c'era? Rischiare quello che è successo, che il giocatore dopo poco non ce la fa più, e dell'altro c'è un rimorso a vita, che tu nella partita più importante, metta che capitava che un altro giocatore stava lì e non concludeva l'azione, chiunque avrebbe detto, ma perché non ha messo Diego Costa? Questo è evidente, da qualunque prospettiva la si guardi il discorso è questo. Facciamo così, giriamo la domanda a un allenatore, un maestro di pallacanestro che ha vinto 3 scudetti e che ha vinto un pezzetto della sua prima Coppa dei Campioni in un'altra serie. Guarda, in un altro sport, il calcio. Alberto Bucci, buongiorno. Ma lei come va? Bene, è stata una faticaccia, ma alla fine è bello. No, Alberto, prima di raccontare questa storia della tua partecipazione comunque alla Coppa dei Campioni vinta da Carlo Ancelotti, che è un tuo grande amico, questo lo sappiamo tutti, c'è questo discorso di Diego Costa da allenatore. Uno dice, però è infortunato, ma l'allenatore va alla fine con i suoi uomini, ma alla fine gioca con la sua stella. È chiaro che oggi si dice, hai rischiato un giocatore che dopo 9 minuti è uscito dal campo zoppicando e ti sei bruciato un cambio. La mentalità di un allenatore qual è? Cosa sta dietro questa scelta? Ma io credo che ci sia una cosa importante da dire. Diego Costa è stato l'uomo che l'ha portato lì, sì, perché senza di lui lì non ci sarebbero arrivati. Diego Costa va in Montenegro a farsi fare questa cura con il cavallo lì, la placenta del cavallo. Rischia di suo, perché chiaramente non rischia solo per l'Atletico, ma dice io sono disposto a sacrificare i mondiali, forse, anche i mondiali e una parte della mia carriera per l'Atletico. Un allenatore in quel momento deve dargli una chance, non può, e penso che tutti i compagni erano felici che lui ha provato, non ha creato un danno neanche psicologico. I compagni hanno detto speriamo, gli sono stati vicini, mi hanno dato fuori, gli hanno detto grazie. È venuto dentro uno che aveva meno responsabilità, nel senso che sapeva che era lì e che doveva dare il massimo, che non era Diego Costa. Se partiva dall'inizio aveva una responsabilità in più, andare in campo e fare quello che faceva Costa, sicuro, anche se non poteva, perciò è difficile. Il risultato è quasi sempre figlio di un impatto psicologico, di una preparazione mentale di un gruppo per un grande evento. Si è partiti per arrivare a quel grande evento, ci si è arrivati, si dà le chance anche chi ti ha dato la mano, e credo che è un emblema per loro, e credo che tutti quanti, anche il pubblico stesso, ha capito. Certamente, perché ma questa è la mentalità di ogni allenatore: vai con i tuoi uomini, vai con quelli che ti hanno portato a quel punto. Pierluigi, hai visto l'altra sera il gol di Sergio Ramos? Sembrava un'azione di pallacanestro, 2 blocchi in serie. E Sergio Ramos che esce da uno di questi blocchi e segna il gol dell'1-1. Hai notato? Sì, no, io vorrei che Alberto ci spiegasse proprio come. Ci spiegasse in che consiste il suo lavoro. Adesso con Carlo e ci spiega, ci facesse la telecronaca da tutto il tattico di quel colpo di testa. No. Abbiamo preparato, sì, con Carlo abbiamo parlato le punizioni e i calci d'angolo. Però devo dirti onestamente che a un minuto alla fine forse perfettamente tutto non sarà venuto. Quello che è venuto perfetto era stato a col Bayer, tutti erano preoccupati che sicuramente di Ronaldo invece di andare con piedi di testa, ha marcato l'uomo, ha bloccato l'uomo di Sergio Ramos, e Sergio Ramos è venuto fuori colpendo di testa. Ieri, è vero, mi è sembrato anche a me in quel momento che Ramos ha avuto il tempo da aspettare, non si è buttato in mezzo, ha aspettato che calciasse, sì, ed è venuto fuori forte. Lui è stato molto bravo perché ha sfruttato i due blocchi per venire dentro. Però se ti dicessi che in campo, guardato che l'avevamo preparato per quello, direi una bugia. Sì, però sembrava un blocco tandem, caro maestro. Sì, sicuramente è stato fatto quello che si dovrebbe fare. In quel momento lì era lui. Ma devo dire la verità, non aveva neanche pensato prima della partita a Sergio Ramos, perché eravamo sicurissimi che avrebbero marcato Sergio Ramos. Capito, Pierluigi? Invece mister, anzi coach, ormai calcio e basket si mescolano, spieghiamo la grandezza di Ancelotti adesso da collega, nel senso che poi si parla ovviamente insomma delle qualità tecniche e tattiche incredibili, ce le deve avere un allenatore che vince 3 volte la Champions League, certo. Però la mia percezione, per quel poco che lo conosco, è che la grandezza di Ancelotti sia proprio nell'umanità e nella psicologia. Vorrei che tu ci raccontassi qualcosa. Sì, di questo. È una persona stupenda, devo dire che lui ha detto a un'intervista che io avevo preparato la partita col Baia, che avevo visto che sul lato debole loro erano più deboli, e di colpire. Io non l'avrei mai detto, devo dire la verità, se non lo diceva lui, perché sono cose sue. Perché vedi, scusa se ti do del tu, ma un onore. Se fa gol e lui dice che io gli avevo detto questo, dice però Bucci gli ha dato una mano, ma se gol non lo faceva, lui non diceva niente, voglio dire, la responsabilità è sempre sua. Cioè alla fine un allenatore è bravo se sa ascoltare le cose e prende quelle giuste, di chiunque si fidi e con collabora. La grandezza di un allenatore non è quella di fare il duro ed essere il padrone di tutto. Un grande allenatore ascolta ed è bravo a ascoltare, guarda ed è bravo a vedere, poi sa prendere un buon frullatore, mescola tutto e stende nel piatto il cibo perfetto. Molte volte invece l'allenatore, molti dicono, deve essere il leader. No, il leader non lo è mai l'allenatore, il leader lo leggono i compagni. E Ancelotti è dei compagni della squadra, diventa un punto di riferimento. Se all'inizio tutti lo guardano un po' stranamente, poi alla fine credo che gli abbracci dei giocatori alla fine della partita, dentro alla sala stampa, ha un significato più grande che in campo. Hanno voluto dire a tutta Europa grazie Carlo, perché gli ha creato una grande tranquillità dopo le 3 sconfitte, dopo le 2 sconfitte al pareggio nel campionato dove se l'erano giocato. Lui si è preso addosso tutte le responsabilità. Lui è una persona serena, tranquilla, perché è serena, tranquilla. Non ha bisogno di fotografie, non le vuole. Ed è questo il nodo di tutto. I giocatori sanno che apprezzano e ringraziano in quel modo chi si prende la responsabilità per loro. Vale anche per Mourinho questo discorso. Se io ti posso fare un esempio, se tu chiudi gli occhi e pensi al tuo papà, alla tua mamma, non ti viene in mente che cosa ti dicevano, ma vedi dei film del loro comportamento. La vita è fatta di esempi, e con dei buoni esempi continui, perché sei vero, dopo i giocatori apprezzano. Grazie coach, grazie della lezione. No, per carità. Grazie davvero. No, ma anche perché davvero spiegare questa cosa è giusto, rende omaggio allo stesso Ancelotti oltre che ad Alberto Bucci, no, Pardo, mio caro. Sì, ma guarda, il concetto di leadership, il concetto di esempio, la chimica e la magia che c'è in certe squadre certe volte è studiata nelle aziende ormai, è una delle forme più potenti. Dai, delle chiavi del successo, poi per farla facile si perde, è chiaro, poi si dice si perde, no, evidente. Però la grandezza dell'uomo e dell'allenatore è indiscutibile. Io ti dico la verità, insomma, io alla calma di Ancelotti in certi momenti provo a ispirarmi, io non ce l'ho per niente, però insomma lui per me da questo punto di vista è veramente un modello. Cioè una persona che in certi momenti mi è quasi utile, quando ci penso quasi, no? Alla sua capacità di rimandare i problemi o comunque di viverli sotto una luce più grande, sotto un pensiero più grande. E questa cosa io penso che chi ci lavora poi tutti i giorni e lo incontra tutti i giorni e non lo vede una volta all'anno, no, ma è quello che ti dico prima, no? Allenare, fare allenatore di calcio, allenare su un campo di calcio è un mestiere, allenare in questo modo un gruppo di giocatori così importanti è un'altra professione, e di questo sono profondamente convinto. E in questa altra professione, questa è una delle chiavi, appunto, delle chiavi del successo. Pierluigi, ci sentiamo domani? Sì, posso dire che in 10 secondi credo, sì, che Ancelotti, magari quando sentiremo nei prossimi giorni, debba molto al Lidl. Sì. Secondo me è molto a sacchi dal punto di vista. Allora, proviamo, guarda, facciamo così, proviamo a convocarlo un giorno. Intanto ti abbraccio, devo mandare i consigli per i nostri amici scommettitori. Ci ritroviamo dopo il GR. Ciao Pierluigi. Quote e pronostici. Stasera alle 20.30 scende in campo la Serie A di basket a Reggio Emilia. Arriva a Siena per gara 4 dei playoff, con la serie sul 2-1 per Reggio, che ha il primo match ball per mandare fuori la Montepaschi. Vediamo allora quelle che sono le quote sniper a questa partita. L'1, il successo di Reggio Emilia, è quotato 2, l'X è a 4.25, il 2 con il successo di Siena sul parquet dei rivali è quotato 2.75. Quest'oggi invece giorno di riposo al Giro d'Italia, allora è possibile magari indovinare chi secondo voi sarà in rosa sul traguardo di Trieste il prossimo 1° di giugno, aggiudicandosi così il Giro d'Italia. Quote del vincitore, che rispetto a inizio giro sono cambiate: favorito numero 1 è sempre Nairo Quintana, la sua quota da 2 passa a 2.50, Uran Uran, attuale maglia rosa del Giro, è quotato 3, Fabio Aru, primo sul traguardo di Montecampione, è quotato 7, Domenico Pozzovivo, che ha dimostrato un'ottima gamba fin qui in questa edizione del Giro d'Italia, è quotato 10, Evans e Maika sono quotati 15. Domani si torna in sella per la settimana decisiva. Tante le montagne, tanti i verdetti. Adesso ripetete tutti dentro di voi: la mia azienda è un'eccellenza. Il capo è un supereroe. I colleghi sono simpaticissimi. La mensa è squisita, squisita, squisita, squisita. Per lavorare meglio nella tua azienda c'è un altro sistema, INAZ. INAZ ti dà tutto per la business intelligence, le risorse umane, le paghe, i sistemi mobile. INAZ, Human Energy. Mi dai una mano con il vestito? È un po' strettino. 25 anni fa mi stava a pennello. Devo proprio rinnovare il guardaroba. E se iniziassimo a cambiare l'armadio? Dal 24 maggio al 2 giugno venite a festeggiare con noi i 25 anni di IKEA. Per i soci IKEA Family e IKEA Business, 15% in buon acquisto spendendo almeno 150 euro su tutti i prodotti in pronta consegna. Operazione a premi. Consultate il regolamento e scoprite tante altre sorprese e promozioni su ikea.it/25anni. Ciao, siamo sempre noi. Ma per questa storia dell'aumento al 26%, cosa facciamo? Ci spostiamo? Esercitiamo l'opzione? O ci facciamo tartassare come al solito? Fatti sentire, è urgente. Sono i tuoi soldi a chiedertelo. Difendili con Money Farm, il tuo consulente finanziario indipendente. Contattaci per un'analisi gratuita del tuo portafoglio in vista dell'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie. Non aspettare il termine del 1° luglio. Vai ora su moneyfarm.com. Money Farm, veramente utile. Oh, grande saggio! La mia casa è troppo piccola per due. Cambio casa o mollo Marco? Prima fai la spesa da Eurospin e coi soldi risparmiati cambi casa. Se poi cambi anche ragazzo, sai dove sono? Ogni giorno selezioniamo per te la qualità e la freschezza al miglior prezzo, per non farti rinunciare a niente. Dal 26 al 31 maggio, operazione fine mese. Patate fritte surgelate delizie dal sole, 1 chilo, a 89 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente. Siete nel vostro ufficio? Avvicinatevi alla finestra e guardate fuori. Cosa vedete? Probabilmente la stessa cosa che vedete tutti i giorni. Bene, oggi potete allargare i vostri orizzonti. Se siete imprenditori o export manager, per voi ci sono i corsi di formazione ICE. Con oltre 50 anni di esperienza nella formazione e 79 uffici nel mondo, l'agenzia ICE è il vostro partner ideale per sostenervi nello sviluppo internazionale della vostra azienda. Venite su formazioneimprese.ice.it. Su Sky sta per iniziare una grande estate di sport. I mondiali FIFA Brasile 2014 con tutte le 64 partite in diretta. E i grandi appuntamenti non si fermano. Tutti i gran premi di Formula 1 e MotoGP in diretta. Il torneo di Wimbledon in esclusiva e tanto sport ancora. Non perdere i mondiali FIFA Brasile 2014. Abbonati a Sky entro il 29 giugno per avere Sky TV, Sky Sport, My Sky e... Tutti convocati. Ci scusiamo per il ritardo, ma proprio il ritardo era dovuto al fatto che stavamo firmando questo contratto e quindi possiamo passare alla prossima domanda. Quindi ufficiale, no, ufficiale, momento, sì, ufficiale. Alle 14.25 di oggi, di che giorno è oggi? Adesso non so neanche più. Ma il giorno per me erano tre mesi fa. Perché il 26 maggio, abbiamo... il giorno dopo le elezioni. 26 maggio, sì. Ha firmato, quindi prolunga il rapporto con la nazionale fino al 2016. Dunque, avete sentito tutto, conferenza stampa di pochi istanti fa, iniziata in ritardo perché Prandelli era impegnato a cercare la penna per firmare questo benedetto contratto, forse ha ragione Pardo quando dice, vabbè, è lo sponsor day oggi alla nazionale, probabilmente è stata così, pensata in questa maniera. Ne parliamo naturalmente tra poco, però vorrei raccontare un'altra storia di ieri perché avrete visto, ma soprattutto sentito tutti quanti, cosa è successo ieri a Monte Carlo, su quella pista, attraverso quelle radio. Bella storia questa. Team radio per Hamilton. I can't believe that we just had to pit. Please inform me of what is the next option I have. Continua. So Lewis, this is going to be a race to the end, so it'll be all down to tire deg or either weather conditions. Hamilton ai suoi. Avrete letto, sentito, tradotto, eccetera eccetera, fa il mazzo ai suoi perché non l'hanno chiamato quando è entrato in pista la safety car, insomma grande nervosismo. Lo sport ha bisogno di queste storie, di queste rivalità. D'altra parte Hamilton Rosberg, questo duello in casa all'ultimo sangue è l'unico tema interessante probabilmente in un film che si sa già oggi come andrà a finire. Umberto Zappelloni, vice direttore Gazzetta dello Sport, grazie, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Buon pomeriggio a tutti. Beh, bella storia, no, questa? Lo sport ha bisogno, male, ha bisogno di storie così. Lo sport ha bisogno di grandi rivalità, la Formula 1 di quest'anno ancora di più, sennò ci addormenteremo tutti dopo i primi tre minuti di gara, dopo la partenza. Sì. Per fortuna che ci sono questi due, per fortuna che li lasciano lottare fino adesso tra di loro, perché tu immagina una situazione del genere nella Ferrari di qualche anno fa. Esatto. C'era un primo pilota ben definito e uno scudiero. Se il mondiale oggi sarebbe già in mano di Hamilton, noi eviteremo tutte le domeniche di accendere la televisione. Ma sai, io sono abbastanza favorevole alla storia degli ordini di scuderia, al fatto che tu l'obiettivo è quello di vincere il mondiale, piloti e costruttori, nessuno dei due è in discussione. Probabilmente proprio per questo alla Mercedes possono permettersi di far combattere all'ultimo sangue due gali, tanto sanno che comunque o sarà uno o sarà l'altro, con Rosberg che è il favorito della Mercedes, si dice, si legge, si può anche facilmente immaginare, pilota tedesco su quella macchina, la Mercedes vorrebbe vincere il titolo con lui. Era successo anche ad Hamilton quando era alla McLaren di stare da quella parte, quindi ci sono molti temi, molti intrecci dentro questa rivalità. Ci sono molti, sì, sicuramente, anche se è vero, Rosberg ha un passaporto tedesco, però mi sembra un pilota che non è propriamente un pilota di scuola tedesca, a parte il papà finlandese certo. l'aver fatto trascorso tutta la sua vita a Monte Carlo e aver avuto comunque un passato anche italiano, quando ha cominciato a correre, infatti è uno dei piloti non italiani che parla meglio la nostra lingua oltretutto, quindi è un po' un pilota globale per così dire, però è un pilota che non ha mai vinto, quindi la Mercedes tornare a vincere un campionato del mondo con un pilota che potrebbe più gloria alla casa forse che a se stesso potrebbe interessare, però non dimentichiamo che comunque Hamilton è secondo me uno dei due o tre top driver del momento e che non sarà così facile battere, perché Monte Carlo è vero, è la pista di Rosberg, lo ha dimostrato l'anno scorso, ci corre in modo magnifico, adesso ha imparato anche a fare il furbetto, anche essere un po' caronina, che non fa male, perché comunque per diventare super campioni bisogna esserlo, ce lo dimostra la storia di questo sport. però credo che Hamilton ne abbia ancora qualcosa in più, sempre che la squadra nascostamente non cominci a prendere a tramare un po' il nome. Ma non è che, direttore, non è che magari Hamilton dà questi segnali, manda questi segnali di chiaro nervosismo, perché forse nemmeno lui si aspettava un Rosberg così competitivo, e dentro questa parola c'è tutto, compreso il fatto di essere diventato carognetta. Assolutamente, dopo le sue quattro vittorie di fila, Hamilton aveva convinto di arrivare a Monte Carlo di potersi gestire Rosberg anche su questa pista. Sì. In qualifica però è successo quel che è successo con Rosberg, non credo volontariamente, però insomma, se l'avesse fatta volontariamente, tanto di cappello, perché l'ha fatta veramente in modo molto furbo, in cui è riuscito a evitare che il suo compagno di squadra tirasse il giro veloce, facendogli tirare fuori e esporre le bandiere gialle proprio sul più bello, e questo gli è rimasto lì sul groppone, perché già nelle sue dichiarazioni post qualifiche si era capito che non aveva digerito quello che era capitato in pista. E poi ieri questo richiamo ai box sotto safety car dietro al suo compagno di squadra, cosa inevitabile per come stavano andando le cose in pista, gli ha addirittura l'ho fatto innervosire ancora di più. Alla fine ci si è messo pure un moscerino sotto il carro, e alla fine della gara veramente non sembrava uno arrivato secondo, sembrava più un ferrarista arrivato da una gara tragica invece. Ferrarista, e la lingua batte dal dente duole. Sì, perché anche ieri devo dire che ieri Raikkonen, grande gara, grande gara, ha fatto una bellissima parte, non avesse avuto la sfortuna di prendersi Hilton nel sedere anche lì dietro safety car, probabilmente sul podio ci sarebbe anche entrato. Ed era la prima volta che quest'anno Raikkonen è riuscito a fare vedere quello per cui è stato ingaggiato poi dalla Ferrari. Alonso invece, dopo una bella fiammata venerdì e delle buone qualifiche sabato, taxi driver giovedì e sabato, ieri l'anonimo ferrarista, io l'ho chiamato stamattina, sì, non fatto vedere assolutamente nulla di quello per cui è pagato. Quindi taxi driver, quarto posto, ultimo dei non doppiati, sì. Comunque una magrissima consolazione. Grande nebbia. Facciamo intervenire nella discussione anche Ivano da Monza, poi ti coinvolgo anche in una battuta su Prandelli, il rinnovo, quello che può significare, eccetera, eccetera. Ivano, buongiorno. Ciao Carlo. Ciao. Dimmi. L'anno scorso facciamo un discorso su Raikkonen, prima ancora che ritornasse alla Ferrari, ti ricordi forse? No? Che non lo so. Tu non sei mai stato estimatore di Raikkonen. No, io no, allora non ero io, perché io adoro Kimi Raikkonen. No, abbiamo parlato appunto del discorso che era stato esautorato dalla Ferrari, preferendogli Massa per questioni commerciali. In Brasile della Fiat, vabbè, lasciamo perdere. E secondo me Raikkonen è spinto dall'orgoglio di essere ritornato in Ferrari, richiamato dalla Ferrari dopo essere stato cacciato. Certamente. Mentre Alonso, per contro, secondo me è scazzato, perché non gliene va bene uno, insomma. È arrivato alla Ferrari nel momento peggiore. Ha dato tanto del suo, perché io lo stimo come pilota, che è grandissimo, secondo me è il miglior pilota. Anche secondo me. Anche se appunto io tifo Raikkonen comunque. Niente, secondo me si sta perdendo. Beh, io posso capire anche, direttore, posso capire anche lo stato d'animo di Alonso e il suo sottile lamentarsi di tanto in tanto. Lui alla fine, è vero, ben pagato, quello che vuoi, però alla Ferrari ha dato più o meno metà della carriera. Sì, lui è arrivato in Ferrari con due titoli mondiali, convinto di poter arrivare al terzo, molto. C'è quasi riuscito all'inizio, poi con l'incomprensibile errore nell'ultima gara della sua prima stagione ferrarista, poi i suoi errori nelle stagioni successive lo hanno allontanato dal terzo mondiale, che incomincia a diventare un po' il sogno proibito di questo pilota, che lo meriterebbe, perché Alonso è uno che secondo me, soprattutto in gara più che in qualifica, spesso dà il 110% di quello che vale la macchina, insomma, sì. La macchina vale 5, lui la fa valere 7-8, ed è straordinario in questo. Che stia un po' perdendo di fiducia, però è inevitabile, perché quest'anno col cambio dei regolamenti lui pensava veramente di avere in mano una Ferrari che stesse davanti alla Red Bull, che forse è anche vero, però nessuno prevedeva una Mercedes così veloce, affidabile, anche perché dopo i problemi alla prima gara la Mercedes non ha più avuto problemi di affidabilità, e quindi lui vede sfuggire il suo terzo titolo mondiale, e ha anche le idee un po' confuse, credo, per il futuro. Restare certo, in Ferrari certo. O c'è una nuova sfida dalla McLaren. È un po' prigioniero di questa scelta. Alla fine perché sai, di campioni del mondo con due titoli ce ne sono tanti. Bravissimo. Tre cominciano ad essere un po' meno, cioè, è quello che ti fa fare un po' il salto di qualità. È chiaro, è chiaro. E lui vede Vettel che ne ha quattro, insomma, nella storia della Formula 1 resterà l'albo d'oro, che non rende giustizia al talento di Fernando Alonso, perché questo è, secondo me, un falso storico. Mentre per quanto riguarda il biondino Kimi Räikkönen, io posso capire perfettamente la sua soddisfazione, sappiamo com'è di carattere, il rischio è quello di perdere un po' per strada, sarebbe un peccato perché è un pilota meraviglioso, secondo me. Sì, è un pilota che sente la, se sente la fiducia del team può fare cose straordinarie. Devo dire che non è che la Ferrari lo cacciò per preferirgli Massa, lo cacciò perché c'era un ritmo sul mercato e lui aveva fatto l'anno dopo la conquista del titolo mondiale a livelli molto ma molto bassi, soprattutto all'interno del team non aveva più dimostrato quella voglia di impegnare, forse si era sentito appagato dal primo titolo, certo. Cosa che poi gli è passata dopo l'esperienza nei rally e dopo il grande ritorno con la Lotus, gli è tornata la voglia e poi è uno che sa guidare, su questo non c'erano mai stati dubbi. Senti, Umberto Zappelloni, direttore su Ancelotti, si apre con su Ancelotti, su Prandelli, si apre con la notizia del suo rinnovo ufficiale da meno di un'ora, abbiamo sentito ora la voce, la settimana determinante nella preparazione dei mondiali, la settimana della lista dei 23, la settimana che ci consegnerà la squadra per il mondiale. Sì, ci ha messo tre mesi a trovare la penna, come dicevate prima, perché non è un rinnovo più che scontato, ormai dopo tutto quello che si era detto e scritto in questi mesi, giusto che sia stato fatto prima del mondiale. Forse è un po' signore dei tempi che sia stato annunciato nel giorno dello sponsor badge della nazionale, mentre si poteva farlo tranquillamente 10 giorni fa. L'hanno disegnata fa, così, abbiamo diciamo detto che prima. È stata disegnata perfettamente dal punto di vista dello sport dei giorni d'oggi, però non c'era bisogno di questo per andare al mondiale. Prandelli ha ancora la piena fiducia, credo, dei 50 milioni di commissari tecnici che ci sono in Italia, è il lavoro che ha più consigli, credo, durante una stagione sportiva, perché tutti si ritengono abili per dare un consiglio al commissario tecnico, certo. E credo che tra una settimana, quando il 2 giugno ci saranno i convocati, la lista definitiva, ci sarà qualcuno che comincerà a dire che Prandelli ha sbagliato, ma chiaro, lasciare fuori questo o quell'altro, come c'è già stato qualcuno che ha pensato che lasciare a casa Totti sia stato un errore e compagnia, ma il bello è questo. La speranza è che poi riesca a scegliere i 23 che in Brasile siano anche più in forma dal punto di vista fisico e mentale, perché la nostra nazionale ha un girone difficile, però ha un girone che può, perché è alla sua portata, l'Inghilterra, Uruguay, beh, anche il girone che ti può lanciare, esatto, e poi sappiamo che dalle difficoltà la nostra nazionale hanno sempre poi sono sempre riusciti a trarre degli stimoli migliori. È quindi meglio un girone un po' più difficile, sicuro, che un girone facile. Sicuro, è perfetta rampa di lancio. Grazie direttore, grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie davvero. Allora, prima di Emanuele da Piacenza, Luigi da Udine, abbiamo anche Briatore su Alonso, no? Ce l'abbiamo, sì, eccolo qui. Fernando, sai, come tutti i piloti adesso, la storia è questa, sono anni che lui aspetta una macchina vincente e sono anni che la macchina vincente non arriva, cioè, poi non è che ci siano, io credo che adesso Montezemolo ha messo a disposizione da anni i mezzi per poter fare, e bisogna cercare di dargli una macchina competitiva, perché è molto difficile per un pilota che sa che quanto vale avere una macchina che fatichi a finire nei primi sei o nei primi due, cioè un pilota quando parte vorrebbe almeno giocarsela la vittoria, poi puoi anche perdere una gara, due, però quando parti che sai già che ti danno 20 secondi, 30 secondi, diventa molto difficile. Parole molto chiare come sempre, quelle di Monsieur Briatore. Emanuele Piacenza, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Niente, volevo esprimere il mio parere sulla finale di sabato, sì. Ed ero d'accordo con i suoi ospite di venerdì, che diceva che francamente il Real Madrid, non rispettando un po' tutto il presidenziario, è un po' antipatichino a tutti, e è il grosso dispiacere di vedere sfumare una vittoria al recupero, un po' come l'Italia ha perso poi l'Europeo con la Francia. Sì, un po' sì, poi lei è rimasto male, io invece sono stato felice perché lei tifava Atletico, io tifavo per Carlo Ancelotti, per Real Madrid. Sì, no, no, non mi poi dispiace, sono questioni di tifo, cioè da mio punto di vista, io sono strafelice che l'abbia vinto Ancelotti, sono strafelice, ripeto. D'altra parte la dinamica della partita è stata questa, perché il calcio è uno sport meraviglioso, però nessuno, nemmeno lei tifoso Atletico, può dirmi che Real Madrid non abbia meritato di vincere quella finale. Un romantico, preferiamo una vittoria dell'Atletico. Io sono un prosaico e sono felicissimo che abbia vinto il Real Madrid con una vittoria che, peraltro, ripeto, al di là della componente sfiga, è stata strameritata, perché se il gol... adesso strameritata, a parte dei supplementari, ha tenuto la palla, non ha torto Ancelotti quando dice sì, non ha mai tirato in porta, cioè anche Ancelotti ha ragione nel dire va bene, complimenti a Simeone, però ragazzi, questi qua non hanno mai tirato in porta, e primo tempo pessimo del Real Madrid, ma dal secondo tempo fino alla fine l'Atletico è pure in vantaggio, dinamica, la partita è stata quella, però non l'ha presa mai. Quindi se vediamo una partita di calcio al di là del tifo che si può fare per uno o per l'altro, la lettura è questa. Luigi Udine, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Ti seguo con piacere da anni, anche ancora da quando c'era il buon Garanzini. Sì, certo. Allora, brevemente, penso che Real Madrid tutto sommato abbia meritato di vincere, poteva segnare il pareggio anche prima del 93esimo. L'Atletico mi sembra che fosse poco brillante dal punto di vista fisico rispetto alle partite precedenti in Coppa, ma ha fatto un grande torneo. Una cosa che volevo chiedere a lei personalmente: ho sentito la puntata in cui c'era anche il dottor Cruciani ed altri, avevate fatto dei pronostici. Sì. E mi ricordo che lei aveva detto: va in vantaggio l'Atletico, pareggia il Real a finale partita e poi finisce 4-1. Lui, come ha fatto? No, allora lui non mi sembra di aver detto così. Non ho detto pareggio Real alla fine della partita, ho detto secondo me vince Real Madrid 4-1, ed è il primo pronostico che ne vado molto fiero, che indovino in cent'anni, tanto che un sacco di ascoltatori mi chiamano, mi scrivono: sei un gufo, basta che tu pronostichi qualcosa e mi porti una sfiga pazzesca. Stavolta l'ho preso, come ho fatto? Non lo so, mi ricordo che aveva, mi scusi se l'ho interrotta, sì, aveva fatto un riferimento anche ai supplementari. Io? Proviamo a sentire. È una cosa che mi ha colpito, può darsi che mi sbagli. Secondo me si sbaglia, perché io era Franco Piantanida che aveva fatto riferimento ai supplementari. No, io non credo proprio, anche perché pensavo a un 4-1, ma con un andamento totalmente diverso. Io dico Real Madrid 4-1, doppietta di Cristiano Ronaldo e Carletto Ancelotti che alza la decima, e io sarei contentissimo. Infatti lo sono anche oggi. Poi quanto al resto volevo dire una cosa, mi sfugge. Raul da Milano, buongiorno. Grazie comunque, grazie a Luigi per aver ricordato a tutto il mondo che ho indovinato il pronostico. Peraltro non so se riusciamo a recuperare prove documentali, ma certamente sì, nei prossimi giorni. Io avevo pronosticato Real Madrid a inizio stagione vincitore della Champions League, quindi sono già due, cari amici gufi. Raul, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo parlare, della finale di Champions. Secondo me Simeone ha sbagliato completamente, perché non doveva far giocare Diego Costa, perché perseverare è diabolico, come si dice. Aveva sbagliato già nella partita col Barcellona. La partita col Barcellona si era fatto male in quell'occasione era un rischio, in questa occasione è stata a maggior ragione un rischio. Poi è chiaro che dopo possiamo dire tutti: va bene, ha sbagliato, si è bruciato un cambio dopo 9 minuti, però hanno pieno diritto di cittadinanza anche le affermazioni di Alberto Bucci che abbiamo sentito prima, o ragionamenti di Pardo e Condò. Insomma, tu vai all'ultima sfida, quella più importante, anche per una questione di gratitudine, per una questione di riconoscenza, per una questione di gruppo, parola data, di faccia, di film, di sensazioni, per tutti questi motivi vai all'ultimo atto con i tuoi giocatori. È chiaro che se Simeone ha chiesto Diego Costa come stai, ce la fai, e questo ha detto voglio giocare, lui dice ok, allora il mio fuoriclasse è quello che mi ha portato qui, gioca. Poi è evidente che avesse avuto un cambio in più in quel finale, quando c'era da resistere ad un Real Madrid che stava dilagando, magari sarebbe andato in un'altra maniera, però ripeto, col senno di poi non si arriva da nessuna parte. Abbiamo la borsa, sì signori, torniamo dopo. 800 24 00 24, numero verde. Tutti convocati. E abbiamo convocato al volo Giovanni Capuano, che passava di qua. Dobbiamo parlare di mondiali dopo, giusto? Ciao, sì, Giovanni. Dopo dobbiamo parlare di mondiali, perché sarà un mesetto e mezzo intenso. Sì. Noi abbiamo cominciato a dare qualche chicca la domenica, perché raddoppiamo il sabato, perché possiamo mettere le tende qua. Noi qua, sì. Dario Ricci in Brasile, Pierpardo in Brasile, sta per partire. Sì, il 1° giugno parte Pierluigi. A proposito, i vostri convocati... Per vincere, per portarvi a casa la maglietta autografata di tutti i convocati, per venire a ritirarla qui e stare con noi per una puntata di tutti i convocati, andate sul nostro sito radio24.it, inviateci un file MP3 della durata di un minuto con una valutazione argomentata dei vostri 23 convocati ideali. Diteci chi e diteci perché. Tuoi? I miei 23 sono quelli di Prandelli, con la differenza che io però Pepito Rosso, ma quelli che farà Prandelli andranno quelli benissimo. No, però io Pepito Rosso me lo porterei a costo di lasciare a casa chiunque. Scelta la Diego Costa. Meglio un genio zoppo che un altro che va a fare il turista, come è stato in Ucraina e Polonia, che in tanti hanno fatto i turisti. Invece meglio Pepito Rosso. Ieri Marco Ansaldo, sì, che è assolutamente... contrario alla convocazione di Cassano, diceva meglio Pepito Rossi che Cassano, ma solo uno se ne può portare che sia un'incognita. Secondo me li puoi portare tutti e due, no, però mai Pepito Rossi perché? A casa. Perché incognita Cassano? Cioè Cassano non è un'incognita, sta benissimo, è reduce una stagione perfetta, è motivato, insomma possiamo dire, sì, un sacco di belle cose. È però l'uomo cose, degli ultimi 20 minuti, perfetto, dell'ultima mezz'ora, vuole, no? E giustamente bisogna giocare anche i primi 60 di minuti, sì. Non bastano gli ultimi 30, perché se arrivi lì e che te la stai giocando tentando l'ultima carta, significa che qualcosa è andato male, quindi serve un piano B. Il ragionamento non fa una grinza. Detto questo, io porterei sia l'uno che l'altro. Anch'io. E la ragione di tutto è che Prandelli non si fida più ciecamente di Balotelli e quindi deve disegnare anche un piano B, un'Italia diversa tatticamente. Quindi un'ulteriore incognita. A proposito di Prandelli, abbiamo anche altre dichiarazioni di conferenza stampa, no? Sul rinnovo del contratto l'abbiamo sentito. Era già tutto previsto, come cantava il poeta, però si è aspettato questo giorno. Che è quello degli sponsor. C'è un altro argomento di stringente attualità. Sai che Deschamps ha detto nella ritiro della Francia: tutti potranno giocare col computer, twittare, andare su Facebook e fare quello che vogliono. Sì, ma il problema non è quelle che sono nel ritiro della Francia, ma quelle che sono fuori dal ritiro della quelle Francia. E quelle che sono fuori dal ritiro dell'Italia? Quelle che sono fuori dal ritiro dell'Italia mi risulta che possano fare più o meno quello che vogliono, non è un problema. L'ha detto oggi. Senti, ti faccio sentire. Per quanto riguarda i giocatori, abbiamo deciso di lasciare la massima libertà a tutti di esprimersi, e quindi avranno anche durante il mondiale la possibilità di rapportarsi con i tifosi e con chi ovviamente vogliono mandare i messaggi con la massima libertà. Quindi internet free. Sì, ti posso raccontare una cosa. L'anno scorso, durante la Confederations Cup, non è successo niente di grave su internet, Twitter, Facebook, queste cose qui. Fatto salvo che Balotelli è stato beccato a twittare a notte fonda, sì, dopo che Prandelli aveva fatto la predica sulla necessità di essere più attenti sull'uso dei social, eccetera. Messaggini arrivati di prima mattina in Italia, poi fai due conti col fuso orario e ti accorgi che lui era lì nel cuore della notte, che stava parlando con il Sharawi, stavano giocando, insomma, e discutevano su Twitter. Tutto bene, secondo me ne riparliamo il 15 giugno dopo Italia-Inghilterra, però, che è lo spartiacque del nostro mondiale. Se dici si può fare, allora si può fare. Poi ci sono gli insonni eterni, c'era, ti ricordi, Tardelli che non dormiva mai, Ma capita anche, cioè sono adulti, sì, però, sono professionisti. Però a me hanno raccontato che Bearzot tollerava Tardelli, che non dormiva mai, tollerava un paio di senatori. Qualcun altro ha finito la sua esperienza con la maglia azzurra perché è stato trovato davanti a un ascensore al momento sbagliato, in un momento in cui Bearzot era di carattere. Cognome e nome? No, non te lo faccio. Tanto lo sappiamo. 800 24 00 24, quindi Giovanni Capuano sposa qualunque essa sia la decisione di Prandelli. Io non sono così convinto che porterà Giuseppe Rossi, ma no, io vorrei lo portasse, cioè io sono per Giuseppe Rossi, per Cassano, per tutti quanti, e con Cerci, considerato naturalmente qual è centrocampista. Poi tu mi dirai, c'è già che Andrea centrocampista offensivo, non vuoi sbilanciare troppo la squadra, però i mondiali li vinci con gli attaccanti, quindi la sensazione però è che, almeno l'ho avuta netta l'altro giorno sentendo Castellacci, non mi è sembrato così entusiasta su Giuseppe Rossi. No, non mi è sembrato caldissimo, ma per quello lanciamo l'appello. Pepito deve andare in America. Cesare, non vogliamo ragionieri, sii coraggioso, ricordati che il famoso Paolo Rossi andò in Brasile con meno minuti giocati di quelli che eventualmente accompagneranno Pepito Rossi. Sì, era fisicamente sano però, Sì, cioè, però da due anni fermo. Come sapete, per la ben nota storia delle scommesse, due anni fermo, giocò tre partite, no? Partite, nemmeno tutte intere. Nemmeno tutte intere nel finale di stagione della Fece della un gol a Udine di testa, tra l'altro. Al suo rientro. Al suo rientro, e poi volò nei mondiali, fece una prima parte scandalosa dal punto di vista della tenuta fisica insieme a tutta l'Italia, e poi dopo il resto è storia. Allora, ieri, come hai raccontato, non ci piacciono i ragionieri, non sono il calcio ma nemmeno il ciclismo, come hai raccontato la vittoria di Arum? Beh, abbiamo raccontato che è nata una stella, poi devo dirti speriamo, che a volesse Dio del ciclismo. C'era il carissimo Stagi, che mi sembrava quasi emozionato, lui ha ricordato che ce l'aveva sussurrato quel nome prima della partenza del Giro. Che è vero, È vero, assolutamente sì, sì. È vero. Parlava dei 1800 metri di un rifugio in montagna, Stagi, quindi era anche, credo, particolarmente euforico. Adesso lo stiamo cercando, chissà dove è adesso. Stagi. Oggi è giorno intanto, di riposo. È giorno di riposo. Giorno di riposo, stiamo cercando anche Stagi, intanto abbiamo trovato, e lo ringrazio, Beppe Martinelli, che è il DS di Aru oggi, ed è quello che è oggi per Aru, quello che era lo stesso Beppe Martinelli per Pantani un tempo. E questa suggestione, è inutile far finta di no. Beppe, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Questa suggestione oggi è ben presente non solo nei racconti sulle pagine dei giornali, ma nell'intimo di tutti, nell'anima di tutti, perché vogliamo davvero trovare, riannodare un filo. Il ciclismo italiano ha disperato bisogno non tanto di un corridore forte quanto di un nuovo eroe, anche se sono parole eccessive, no Beppe? Sì, sono un po' eccessive, però sicuramente si può cominciare a sognare un po'. Quello che è riuscito a fare Aru ieri è qualcosa di importante. Penso che il ciclismo italiano abbia trovato un qualcosa dove ricominciare un po'. Ci sono stati tanti giovani che hanno vinto tappe al Giro quest'anno, però la vittoria di ieri di Fabio ha dato qualcosa, ha dato il là a qualcosa che potrebbe essere importante già da domani in poi. Quindi ecco che abbiamo recuperato Pier Augusto Stagi. Ciao Pier Augusto, sei? E ciao Carlo, buon pomeriggio. Beppe Martinelli sta dicendo quella di ieri è una prima importante pietra anche per motivi scenografici, perché quella non è una salita banale per chi ama il ciclismo e ricorda la nostra storia recente, e lo sappiamo perfettamente. Però Beppe ci sta dicendo occhio, perché questo è il primo importante gradino, poi vediamo che succede. Ma sono d'accordo, intanto lo saluto Beppe, sono d'accordissimo con lui, perché innanzitutto intanto l'azione, la vittoria di Fabio Aru è a tutti gli effetti l'azione più bella fin qui vista al Giro d'Italia, in assoluto, con tutto il rispetto per i ragazzi che hanno vinto prima di lui. Lui ha ottenuto la vittoria su una salita vera, con un'azione studiata, concordata, guidata, pensata, gestita con Beppe Martinelli in maniera eccezionale. Lui, Beppe, ne ha avuti tanti di corridori di grandissimo valore, ma ne ha uno che probabilmente, veramente, come mi dice lui, non gli puoi raccontare frottole. È uno talmente intelligente che ti scruta negli occhi e non lo puoi ingannare, vuole capire fino in fondo quello che gli stai spiegando, però è anche un allievo prediletto, intelligente, che impara presto e ti segue. E se poi i risultati arrivano come ieri, penso che lo seguirà di più. Sì. E i prossimi giorni, intanto c'è il punto di domanda di domani, intorno alle 17 Mauro Vigno, direttore del Giro, deciderà se il tappone resterà tappone o diventerà una normale tappa, sì. Perché il tempo butta al brutto, sì. E ci sono grossi pericoli di slavine, grossi pericoli per le discese, quindi è in serio dubbio la scalata del Passo del Gavia e della cima Coppi di questo Giro d'Italia, che è appunto lo Stelvio. E sarebbe veramente una disdetta mozzare questa tappa. Io credo che per quanto riguarda Aru, Beppe, si stia facendo alla Stana la danza del sole, no? Sì, no, un po' per tutto, un po' per noi, ma anche per gli sportivi. Io credo che certo. È una tappa troppo bella perché deve cambiare. Non so il percorso alternativo, sarà altrettanto bello, però sicuramente Gavia e Stelvio raccontano un po' la storia del ciclismo, perciò credo che togliere queste due salite per il secondo anno consecutivo vuol dire togliere qualcosa veramente di importante al Giro. E togliere anche qualche chance in più di attacco per il ragazzo. Ma credo che tatticamente non cambi molto, perché sono due salite sicuramente molto dure, ma vedo che non c'è un vero padrone, potrebbero stare tutti, non dico tutti insieme, però potrebbe andare in crisi qualcuno che magari paga un po' la giornata di riposo o la tappa di Monte Campione, ma penso che i migliori staranno insieme fino all'inizio della salita dell'arrivo, perché già la salita dell'arrivo è importante, non è una salita qualunque, è una salita veramente dura, più dura di Europa e più dura anche di Monte Campione, sì. Perciò credo che basti l'ultima salita per fare veramente la differenza. Diciamo che la storia del ciclismo è fatto di salite mitiche, e togliere due salite così vuol dire togliere veramente un pezzo di Giro. Sì, Beppe Martini, avremo ancora una domanda da farti, Giovanni Capuano, e per Augusto Staggi. Dopo il traffico, subito dopo il traffico te la facciamo. Riguarda un insomma, secondo me, un paragone, un parallelo che, ripeto, magari sarà retorica, sarà banale, ma che oggi sta nella testa e nel cuore di tutti. Tutti convocati. Però Giovanni Capuano, la fai tu la domanda, Martina, la faccio io, falla tu. No, faccio io. Abbiamo parlato di Pantani, ovviamente suggestivo questo paragone. Certo. Intanto mi piacerebbe capire, da chi ne capisce tanto, da chi lo vive, se davvero assomiglia a quello che è stato Pantani. E poi non lo so se si fa il suo bene ad appiccicargli questa etichetta di erede di Pantani, se è un ragazzo che ci spiegava ieri Staggi, tra l'altro è iniziato da poco davvero ad andare in bicicletta, abbia anche la forza psicologica per reggere un paragone così difficile per mille motivi, non solo perché Pantani era un fuoriclasse, quindi per motivi tecnici. Beppe? È abitudine tutti quelli che vanno forte in salita a paragonarlo a Marco. Io credo che un po' gli assomigli, più che altro nel modo di scattare in salita, anche se poi alla fine ognuno ha il suo stile però ho visto, per dire, se andiamo a guardare lo scatto di ieri a 2,5 km da sopra, sì, è stato più un allungo, erano gli allunghi che faceva Marco, cioè quelli che sicuramente è difficile stare a ruota, oppure se stai a ruota rischi di fare dei fuorigiri. Non è lo scatto che fa lo scalatore, che magari fa 100 metri veramente fortissimo, poi si sieda e poi non riesce a fare la differenza. Ieri veramente ha fatto uno scatto con un allungo come quello che più o meno faceva Marco. Ma sta già correndo per vincere il Giro o no? Sì, sta già correndo. Credo che bisognerà aspettare ancora un po'. Io credo che... Guarda, io avevo fatto una previsione tra me e i miei colleghi qua della squadra. Io dicevo, se arrivano i primi 7-10 si può costruire un futuro intorno a questo ragazzo e bisogna cominciare a investire su di lui. Adesso siamo ben più ottimisti, perciò io credo che se arrivassero i primi 5 sarebbe già un qualcosa di importante. Dopo il resto mi tengo un po' qualcosa di scorta. Grazie Beppe, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie Beppe. Grazie, Martinelli. Arrivederci. Pier Augusto, hai sentito? Sì, tutto. Da 10 a 5, e però la sensazione è che già quest'anno un pensiero lo si faccia, ma sarebbe sbagliato non farlo. Ma io credo che Beppe, con l'esperienza che ha, giochi a nascondere, a nascondersi, a fare un po' di scaramanzia, e conoscendo Fabio invece cercherà in tutti i modi, perché è un testone, orgoglioso, ambizioso e soprattutto giovane, anche un po' incosciente, cercherà di arrivare più in alto possibile. Io la penso esattamente come Beppe, nel senso che per la sua età, e tenendo in considerazione che è il suo secondo giro d'Italia, arrivare nei 10 o addirittura nei 5 sarebbe già un grande successo, però è una grande occasione, la grande occasione, perché non mi sembra di vedere un livellamento che potrebbe portarti e indurti ad attaccare e a far saltare veramente il banco. Quintana non è ancora Quintana e non so se nei prossimi giorni potrà diventarlo. Urano mi sembra in sofferenza, Pozzovivo non mi convince a pieno. Cade Evans lo vedo molto forte di testa, ma molto meno di gambe. Sì. Cioè, insomma, ha una grande opzione. E lo spiraglio c'è. La presa alla larga, Pier, per dirci la che corre per vincere il giro. Magari domani sera siamo qui a fare dei ragionamenti diversi. Ma volessero gli dèi del ciclismo, quanto ne abbiamo bisogno di. Ma non, ripeto. Ok, vincere il giro, tutto quanto, ma abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia battere il cuore. E può essere che Aru non lo è ancora, ma lo diventi, per i motivi che abbiamo detto. Pier Augusto, ci sentiamo dopo, anche oggi ti facciamo lavorare, dopo il GR delle 6 ci risentiamo. Volentieri. Ciao. Giovanni, facciamo giusto in tempo a parlare, spero, con tutti e due gli ascoltatori che sono lì, Luca da Parma. Ci facciamo presto, ce la facciamo. Luca, buongiorno. Buongiorno Carlo, grazie per la convocazione. Mi dica. Volevo solamente dire due cose velocissime sulla decima. Innanzitutto, grande merito ad Ancelotti, perché comunque vincere una finale di Champions non è molto facile. E volevo mettere in evidenza, però, a differenza di quanto è stato esposto precedentemente, l'errore di Simeone nello schierare fin dall'inizio Diego Costa. Perché diciamo che la riconoscenza a volte provoca dei danni collaterali. Abbiamo avuto un'esperienza a Mondiale 2010 di Lippi nei confronti di un ex azzurro vincitore di Berlino. E gli esempi sono eclatanti. Sì, l'abbiamo avuto anche con Berzot nei confronti di vincitore 82 a Messico 86. Esatto. Ma sì, sono discorsi un po' differenti. È anche vero che, insomma, l'onestà, anche la. Questo dimostrare riconoscenza può aiutare, magari non nell'immediato ma a medio termine, perché... Sì, ma poi Simeone ha scelto di fare Simeone, semplicemente ha preso l'ultima decisione coerente con quello che ha fatto e ha costruito in questo biennio. Se Simeone avesse allenato l'Atletico Madrid da Carletto Ancelotti, non sarebbe stato a Lisbona, non avrebbe vinto la Liga, e quindi, insomma, bisogna prendere il bello e il brutto. E poi con i secondi, ma non si va da nessuna parte, lo diciamo da due ore. Maurizio da Como domani, perché non ce la facciamo, dobbiamo far sentire il migliore in campo e chiudere qui. Il migliore in campo di oggi chi è? Volevo esprimere il mio parere sulla finale di Champions League di sabato, ed ero d'accordo con il suo ospite di venerdì, che diceva che francamente il Real Madrid, non rispettando un po' tutto il presidenziario, è un po' antipatichino a tutti, e è il grosso piacere di vedere sfumare una vittoria al recupero, un po' come l'Italia ha perso poi l'Europeo con la Francia. Io ci sono rimasto molto male, sì. Rimando sempre un romantico, preferivo una vittoria dell'Atletico. All'interno dell'Atletico invece ha vinto Real Madrid. Ciao Giovanni. Ciao Carlo, ci andava male. Grazie Giovanni Capuano, Claudio Schiattone e Lorenzo Nespoli in redazione, Fabio Cantadori in regia. Domani dopo il GR delle 2 tutti convocati di nuovo. Ciao.